un passo dopo l'altro, vedo quel treno che corre lungo le rotaie. Sento il ferro che soffre, strozzato dai freni su quei binari. Portami via con le meteora dal corpo d'acciaio. Travolgi il mio passato, cancella ogni traccia di quella vita che ho vissuto nell'ingenuità. Ubriaca il mio cuore di nuove menzogne, sfreccia lontano verso il paradiso. Regalami un ultimo inganno, portami via con le meteora dal corpo d'acciaio. Cancella ogni traccia, asciuga ogni lacrima di quella vita che ho vissuto nell'ingenuità. Riprendi la corsa, treno bastardo, guarderò dal finestrino la tua immagine sbiadita che il vento spinge via da me. Ma ora chiudo gli occhi e lascio correre i miei pensieri mentre la vita mi sfugge di lato. Sfreccia lontano verso il paradiso. Regalami un ultimo inganno, portami via con le meteora dal corpo d'acciaio. Travolgi il mio passato, cancella ogni traccia di quella vita che ho vissuto nell'ingenuità. Continua la corsa, treno bastardo, regalami un nuovo futuro. Abbraccio il finestrino, unico compagno verso un nuovo destino. Continua la corsa, treno bastardo, regalami un nuovo futuro. Continua la corsa, treno bastardo, regalami un nuovo futuro.